24 mattino estate con Irene Zerbini. Ancora una volta buongiorno, benvenuti. È il 17 agosto, molti rientrano. Ci ritroviamo con il fatto del giorno. Oggi andremo in un ospedale di San Donà del Piave dove un paziente caduto da circa 3 metri si è ritrovato con una lesione di 2 vertebre e l'impossibilità di essere sottoposto a una risonanza magnetica, questo per 2 settimane, in attesa di conoscere il proprio destino. Ne parleremo tra poco. Voglio ricordarvi però che alle 8:15 incontreremo il corrispondente straniero. Oggi è una giornalista turca che ha raccontato le storie d'Italia partendo da una prospettiva molto particolare, le cucine italiane, non quelle dei ristoranti, quelle collocate dentro ogni casa, una cucina per regione e soprattutto una storia per regione, una mamma per regione. Alle 8:30 avremo invece il sondaggio di Bianco o Nero. Sarà esecutiva un'altra restrizione sull'apertura dei negozi in un'altra zona di Milano, un coprifuoco già contestato dalle associazioni di categoria. E a prescindere, includendole in qualche modo naturalmente, dalle vicende del capoluogo lombardo, vogliamo sapere da voi oggi: funziona il coprifuoco per le zone urbane degradate in Italia? Esprimete la vostra opinione votando il sondaggio sul sito www.radio24.it. Questa è la domanda di oggi. Il coprifuoco è la risposta ai problemi dei quartieri italiani? www.radio24.it. E ora a San Donà di Piave con il direttore di Gazzettino.it, Carlo Felice Della Pasqua. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Ieri in un'interrogazione di Leo Luca Orlando, il presidente della commissione d'inchiesta parlamentare per gli errori della sanità, si è detto che si vuole far chiarezza e capire se in Veneto siano assicurati livelli minimi di assistenza sanitaria. Il Veneto è una delle punte di diamante del sistema sanitario italiano. Dunque, facciamo con te, Carlo, un passo indietro. Chi è il protagonista di questa vicenda e cosa è successo esattamente? Il protagonista di questa vicenda è una persona di 34 anni di un comune vicino a San Donà di Piave che cade da una scala il 1° di agosto e viene portato al pronto soccorso di San Donà con una lesione a un paio di vertebre. È il 1° di agosto e la risonanza magnetica gli viene fatta l'11 di agosto a Portogruaro, che è un centro a una trentina di chilometri da San Donà, perché lì non c'è la macchina per la risonanza magnetica, o meglio c'è la sala che dovrebbe ospitarla, ma non c'è la macchina. A Portogruaro, scusa Carlo, a Portogruaro, sì? Hai detto, per chi così non conoscesse a memoria la cartina del Veneto, no, quanto a una trentina è di chilometri, una trentina di chilometri. E qui stiamo, sì, parlando, siamo sempre in provincia di Venezia, immagino. Sì, siamo sempre in provincia di Venezia e siamo sempre nell'ambito della stessa ASL. Sì. Tra l'altro, poi per leggere gli esiti della risonanza magnetica, il paziente deve attendere altri 2 giorni perché né a San Donà né a Portogruaro c'è un medico specializzato per poterlo fare e deve venire un medico convenzionato da un'altra ASL, da Mestre, e quindi deve attendere altri 2 giorni. Fortunatamente per lui non c'era niente di grave e quindi ieri è stato anche dimesso. Ma... quindi alla fine di tutto questo percorso il giovane è stato dimesso, però ha ritenuto opportuno interessare gli organi di stampa, l'opinione pubblica di quanto successo, con delle dichiarazioni, va detto, anche molto decorose e dignitose. Ci ha tenuto a sottolineare la professionalità dei medici, degli assistenti, di chi lavora in ortopedia all'ospedale di San Donà, ma ha detto: ritengo opportuno rendere nota questa vicenda proprio per migliorare un sistema che già funziona bene. Come mai manca questo apparecchio per la risonanza magnetica e soprattutto quali dimensioni? Dacci un po' un senso di queste realtà. Che dimensioni ha San Donà, che bacino d'utenza all'ospedale? San Donà è una città di poco più di 40.000 abitanti in provincia di Venezia. L'ospedale è uno dei pochi sopravvissuti nella provincia, perché quella che viene chiamata, insomma, razionalizzazione, chiamiamola, ovviamente ha portato alla chiusura degli ospedali più piccoli, ma certo un ospedale di una delle principali città della provincia non è stato chiuso. Insieme a Portogruaro svolge un compito uno di supplenza dell'altro molto spesso, nel senso che magari ciò che non ha uno ha l'altro e viceversa, questo sempre nell'ambito di quel contenimento dei costi, che è una parola d'ordine, ma non solo nel Veneto, naturalmente è una parola d'ordine. Ma la popolazione di San Donà e dintorni come ha reagito, come ha commentato questa vicenda? Voi chiaramente l'avete sollevata, sì, scoperta al gazzettino.it e sul giornale, ricevete le lettere, avete un po' il polso della situazione, del il clima. Sì, noi abbiamo un polso della situazione che è derivato sia dal fatto di andare direttamente a fare persone, sia a gazzettino.it dai commenti che la gente lascia sul sito alle varie notizie che si sono susseguite in questi due o tre giorni. E qual è il tono? La reazione è quella di mista fra lo stupore, perché nessuno si aspettava che una cosa del genere potesse avvenire in Veneto, e l'indignazione. C'è chi racconta storie accadute in altri ospedali, chi consiglia di andare in Friuli Venezia Giulia, la regione confinante, chi fa la differenza fra i medici che devono sacrificarsi contro i burocrati che invece tagliano loro le spese, la possibilità di spendere e di garantire un servizio accettabile ai pazienti. Comunque molti sottolineano, ecco, che la sanità pubblica deve essere una sanità veramente pubblica, che pubblico non è sinonimo di scarso, e quindi se uno vuole un servizio efficiente deve andare e pagare delle cifre. È chiaro, insomma, ecco. Sanità a due corsie deve essere una possibilità di scelta per il paziente, ma non deve penalizzare la pubblica. Grazie a Carlo Felice della Pasqua, e con noi anche Leo Luca Orlando, presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sugli errori in sanità. Buongiorno, onorevole. Buongiorno. Va detto, c'è stata la risposta, grazie alla sua interrogazione che abbiamo citato in apertura di trasmissione, c'è stata la risposta dell'assessore veneto alla sanità, Luca Coletto. Le ha risposto dicendo di apprezzare molto il suo interesse per la sanità veneta, così che questi interventi permettano di verificarne una volta di più l'efficienza e la tempestività. Però, dice l'assessore alla sanità, ho verificato all'ospedale di San Donà di Piave, l'attesa è stata solo di 24 ore. La soddisfa questa risposta? Ma intanto vorrei dire che la Commissione parlamentare d'inchiesta, che funziona da circa un anno, meno di un anno, ha un obiettivo fondamentale: far crescere la fiducia dei cittadini nei confronti del Servizio Sanitario Nazionale. E la fiducia cresce non soltanto se si accertano errori e si sanzionano i responsabili degli errori, ma se accanto a chi dell'errore si va a individuare il perché dell'errore. Voglio fare una distinzione fra il chi dell'errore e il perché dell'errore, perché quasi mai il chi dell'errore coincide col perché dell'errore. Certo, se un chirurgo entra in stato di ubriachezza in sala operatoria, non c'è da discutere il chi e il perché coincidono. Esatto. Ma invece noi abbiamo visto, che non è il caso in genere, che accanto al chi dell'errore, che può avere un suo responsabile, che è giusto che sia accertato e sanzionato, c'è quasi sempre un perché che dipende da fatti organizzativi, da fatti logistici. Allora, noi vorremmo che accanto alla responsabilità del medico, del sanitario che si trova accanto al malato, si venga a chiamare la responsabilità di chi ha organizzato in quel modo, piuttosto che in un modo diverso e più efficiente, la sanità. Fatta questa premessa, noi abbiamo avuto la segnalazione, in questo caso come in centinaia di casi in tutte le regioni d'Italia, abbiamo avuto la notizia di questa presunta disfunzione e abbiamo fatto, come sempre facciamo, una richiesta di relazione all'assessore competente. In base alla relazione che riceviamo, formuliamo una valutazione e poi riferiamo periodicamente al Parlamento. Perché tutta questa azione? Perché noi vorremmo che dietro ogni caso di presunta disfunzione si possa individuare quello che si chiama un caso sentinella, cioè perché non abbia a ripetersi in altre occasioni quell'errore che potrebbe portare, qualche volta purtroppo porta, anche a conseguenze assai gravi. Il professore ha risposto ringraziando, dicendo che questo consente di evidenziare l'efficienza della sanità nel Veneto. Però poi c'è un'ultima agenzia dell'assessore, l'ultimissima agenzia, nella quale responsabilmente l'assessore, dopo avere opportunamente il suo mestiere difeso la sanità del Veneto, ha detto che ha disposto un accertamento per verificare ogni eventuale disfunzione e accertare ogni responsabilità. Allora attendiamo di avere questa relazione, perché noi abbiamo interesse che non si crei il mito che c'è l'efficienza in una regione e l'inefficienza nell'altra, perché anche le regioni che appaiono più inefficienti qualche volta la sanità funziona, e anche nelle regioni che appaiono le più efficienti, come anche sono le più efficienti, qualche volta non funziona. Allora trasformiamo lo spirito in un'occasione per migliorare. È chiaro lo spirito della vostra è chiaro lo spirito della vostra commissione parlamentare d'inchiesta, anche in questo caso non è un puntare un dito, non è come dire una gogna pubblica, ma anche il sistema che già funziona può migliorare, soprattutto perché ogni tacca che si fa, così chiamiamola così, sulla scala dell'efficienza corrisponde poi anche a delle vite, a delle prestazioni, a una qualità della prestazione sanitaria. Non si parla solo semplicemente di una misurazione sterile. La salute è un diritto e non può essere un diritto da far valere soltanto davanti ai tribunali. Lo scopo della commissione parlamentare d'inchiesta è di far crescere la consapevolezza del diritto. Comunque, onorevole Orlando, è stato anche risposto che il nosocomio San Donatese non ha la risonanza magnetica per questioni che sono dovute alla razionalizzazione, diciamo così, delle risorse economiche sanitarie. È un ospedale di un certo tipo, con un bacino di utenza sui 40.000 utenti, e non tutti gli ospedali di questa misura hanno a disposizione una risonanza magnetica. Posso fare una domanda? La domanda è la seguente: quando si qualifica una struttura ospedale, è evidente che da parte del cittadino e da parte dell'organizzazione si parte dal presupposto che in linea di massima in quella struttura chiamata ospedale ci siano tutti i servizi necessari. Vorrei aggiungere onorevole, costi. Non riusciamo purtroppo a sentirla, questo è un problema. Provare a ripetere, pronto? Provi, in 20 secondi siamo in conclusione, ormai il tempo scade. L'abbiamo sentita fino a quando si qualifica una struttura ospedale. Ospedale, è bene che quella struttura abbia tutte le funzioni per non indurre in errore chi vi si rivolge ad essa, perché poi la mobilità tra un ospedale e l'altro, tra San Donà, Portogruaro, San Donà, con l'arrivo di un neurochirurgo da Mestre comporta anche questo dei costi. Valutiamo se non convenga dotare di ogni strumento necessario una struttura che chiamiamo ospedale. Grazie a Leo Luca Orlando. Lui è il presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sugli errori in sanità, e grazie al direttore di Gazzettino.it, Carlo Felicio Della Pasqua. Buongiorno, buona giornata. Buongiorno. E tra poco andremo anche alla rassegna stampa. Ci incontreremo poi alle 8:15, incontreremo via etere naturalmente, con il corrispondente straniero. Oggi una giornalista che ha affrontato la storia d'Italia da una prospettiva molto particolare. Alle 8:30 il sondaggio di bianco o nero. A questo punto chi ha votato alla nostra domanda ha detto che no, il coprifuoco non è la risposta, la soluzione per i quartieri degradati, perché proprio questo vi stiamo chiedendo. Alla luce della nuova ordinanza che prevede a Milano chiusure anticipate per kebab al ristorante in un'altra area, vi abbiamo chiesto è necessario questo provvedimento, porterà a dei risultati? Continuate a votare su www.radio24.it, ne parleremo alle 8:30. 24 mattino estate. Ed è arrivato il momento della rassegna stampa, 32 minuti dopo le 8. Ancora buona giornata da Irene Zerbini, ma insieme a me in studio Gigi dopo le 7. Evidentemente presto al mattino confondiamo anche i numeri, potremmo giocarceli. Gigi Donelli, caporedattore di Radio 24, oggi qui per la lettura dei giornali. Bentornato Gigi. Sì, buongiorno Irene, buongiorno agli ascoltatori. Giornali ricchi oggi, molta materia prima, forte anche della giornata di stop di ieri, quindi insomma molti temi, partendo naturalmente dal Capo dello Stato e dalle critiche ricevute da un esponente del PDL, la risposta molto ferma del Presidente della Repubblica. Ti seguiremo su tutte le testate, dunque. In primo piano. Eccoci qua dunque, Napolitano, Costituzione tradita, allora chiedete l'impeachment. Questo è uno dei temi, forse il tema portante oggi dei quotidiani in edicola, lo prendiamo dall'apertura del Sole 24 Ore. L'altro grande tema ricorrente, insomma la notizia, il fatto, è quello del titolo principale appunto del quotidiano: Cina, seconda potenza economica. Dopo 42 anni, Pechino supera dunque il Giappone e va alle spalle degli Stati Uniti grazie ai dati del PIL del secondo trimestre. L'abbiamo detto più volte, si parla del secondo trimestre, ma insomma il percorso è la nave o la corazzata, anzi, cinese è in viaggio, in navigazione da molto tempo, era atteso, ecco, il momento è venuto. Ora, di fronte all'economia cinese, c'è solamente lontana ancora, poi vedremo quanto e come e quanto tempo sarà necessario raggiungere, c'è solamente dunque l'economia degli Stati Uniti. Cina, seconda potenza economica, il Sole 24 Ore di questa mattina in edicola. Al centro pagina invece una vicenda direi tutta italiana, che è il matrimonio tricolore. Valentino Rossi passa alla Ducati, quindi a centro pagina del Sole una piega da brivido di Valentino, naturalmente sulla sua Yamaha, sulla sua ex tra virgolette moto, visto che completerà comunque la stagione, ma già si ragiona sul passaggio tutto italiano alla Ducati. Da segnalare, ci torneremo su anche su questo tema, il tema delle pensioni, pensione al sicuro con l'ultima riforma, intervista al direttore, al presidente dell'INPS Antonio Mastrapasqua. Vi anticipo, oggi sarà quello delle pensioni il tema al centro del nostro appuntamento delle 9, condotto oggi da Gianfranco Fabi. Vediamo le altre aperture. La Repubblica, l'ira di Napolitano sul PDL. Tradisco la Costituzione, chiedano l'impeachment. Insomma, la dura nota del Quirinale dopo le accuse ai parlamentari della maggioranza. Bossi, dal suo ritiro di Ponte di Legno, dice lo scontro non va esasperato. E Bindi, Partito Democratico, dice stop ai massacri. A centropagina un altro spunto dalla cronaca, nel giorno naturalmente a cavallo, nel giorno di ieri, il sisma di magnitudo 4,5 che ha scosso le Eolie. Dunque terremoto alle Eolie, paura ai crolli, fotografie molto impressionanti della polvere prodotta appunto dopo la scossa dalla caduta dei massi. Terremoto alle 14:54, magnitudo 4,5 della scala Richter, ha fatto franare un costone di roccia liberi sulla spiaggia di Valle Muria. Migliaia di abitanti e turisti hanno abbandonato le case, ma non ci sono stati feriti. Naturalmente, sempre sulla prima di Repubblica, Cina-Giappone, la guerra dei PIL nel secondo trimestre, il sorpasso di Pechino. Vediamo allora gli altri titoli. Il tema è lo stesso, è anche il tenore da parte del Corriere della Sera. Napolitano sfida dopo le accuse. E così come l'immagine è ricorrente, quella del terremoto delle Eolie. Nel taglio basso un altro spunto che vedremo poi di approfondire. In Italia 908.000 giovani invisibili. Chi sono questi giovani invisibili? Il 18% nella fascia tra i 15 e i 29 anni ufficialmente non studia e non cerca lavoro, e per questo sono appunto definiti gli invisibili. Per la stampa è rabbia, la rabbia di Napolitano. Oggi molti commenti e riflessioni su come appunto un uomo posato di mediazione, come appunto il Presidente della Repubblica oggi, o meglio ieri, abbia espresso esplicitamente, forse come mai prima, la rabbia, una sua reazione così ferma. La dura replica: il capo dello Stato risponde alle accuse di interpretazione arbitraria. Intanto il Premier accelera, il Premier Berlusconi accelera, ho già pronto il mio programma. Naturalmente il sorpasso del Giappone, la Ducati e il terremoto. Queste le notizie in apertura anche sulla stampa, con nel taglio basso una segnalazione da Siena: la tragedia prima della gara non blocca il Palio. Tutto questo accade nella notte precedente il Palio che si è disputato ieri. Si stacca un cornicione e uccide un francese. L'organizzazione dice: non potevamo fermarci. Napolitano sfida il PDL per il secolo XIX, Avvenire, stop di Napolitano, e vediamo altre testate come Il Riformista, che parla di schiaffo napolitano. Schiaffo napolitano, mentre nel centro pagina l'estate orribilis di Reggio Calabria, boia chi molla 40 anni dopo. Questo una ricostruzione di quell'estate, di quella estate di rivolta del 1970, appunto, a Reggio Calabria. Il Fatto Quotidiano: napolitano sfida il Caimano, chieda l'impeachment, se ne ha il coraggio, così si rivolge a uno sconosciuto deputato, ma ce l'ha con il premier. Lo sconosciuto deputato su cui titola il Fatto Quotidiano è appunto il deputato del PDL che ha rilasciato due giorni prima l'intervista sul Giornale. E il Giornale, dunque, per conto del suo direttore Vittorio Feltri, puntualizza: il premier lo decide il popolo, scrive questa mattina Vittorio Feltri. Il presidente della Repubblica dice: farebbe meglio non irritarsi se in questi giorni si discute molto su qualcosa, su che cosa accadrebbe qualora il governo non avesse più la maggioranza. La controversia è innescata dalla vicenda di Fini e Seguace, di grande attualità, ed è ovvio che i politici, ciascuno dal proprio punto di vista, ne parlino. E se qualcuno, eccolo, come il vice capogruppo del PDL alla Camera, pensa che sarebbe opportuno tornare alle urne evitando un ribaltone, non c'è da scandalizzarsi. Semmai scandalizzerebbe il contrario. Questo Vittorio Feltri oggi. Il titolo del Giornale è di nuovo su Monte Carlo. Il cognato di Fini ha usato l'ambasciata per i suoi comodi. La nostra sede diplomatica è costretta a occuparsi dei capricci di Tugliani. Ma anche a centropagina, si affilano le sciabole. Scalfari vuole il duello, io ci sto. Il fondatore di Repubblica scelga le armi, ma l'avverto, so tirare di scherma. Quindi lo scontro, di fatto verbale ovviamente, tra Repubblica e Giornale diventa, in qualche modo, viene consacrato dalla sfida, dal guanto di sfida lanciato dal direttore del Giornale a Scalfari: se vuole il duello, io ci sto. Segue articolo. Libero, gli affari di Fini, anche Libero, direi naturalmente, visto che ormai tutto questo accade da parecchi giorni, prosegue sul tema. Ora il fisco indaga sul cognato, la Ferrari, la Casa Monte Carlo, le consulenze, le società offshore. Giancarlo scrive, scrive Libero, a troppi misteri. E a proposito di duelli, c'è anche Storace che si offre: io e Gianfranco, ovviamente Fini, in un duello TV, ho 8 domande. E aggiunge: nel 2005 il Tugliani era nulla tenente. Veniamo alla Padania. Voto: decide il Colle, ma no a governi tecnici. Quindi un altro taglio dello stesso tema, un approccio che poi ha prodotto i titoli sulla prudenza del Bossi. Dice: nessuna dichiarazione contro il Quirinale, dice appunto Bossi. L'alternativa restano però le elezioni. Sul caso Fini, Tremonti lo ha come nemico perché vorrebbe soldi da sprecare al Sud. Dunque, secondo Bossi, tra le colpe recenti, diciamo, di Fini, c'è anche quella di volere soldi da sprecare al Sud. Ci siamo quasi, abbiamo ancora qualche testata da segnalarvi. Liberazione, la sfida di Napolitano, un'immagine appunto del presidente che è un piano americano del presidente che riflette. Lo scontro finale invece per l'Unità: presidente sotto attacco, picconate nel PDL al garante della carta. E ancora Napolitano è sfuriata, in questo caso al PDL, mentre l'incubo delle Eolie, addirittura forse forzando un po' il tema, per fortuna lo spavento a cui si riferisce il Giorno è stato enorme, sicuramente impressionante, soprattutto immagino per chi si è visto arrivare le rocce a poca distanza dagli ombrelloni, ma per fortuna, mentre la gente gridava e si tuffava in mare, i danni sono lievi, per fortuna, e dunque ben lontani dagli incubi che purtroppo invece quest'estate, questa estate 2010 ha prodotto in alcune parti del nostro pianeta, e mi riferisco in particolare al Pakistan, su cui magari torneremo più tardi per qualche momento. Ultimi titoli intanto, e prima di sentire gli aggiornamenti per chi è in viaggio, abbiamo Il Messaggero, la sfida di Napolitano, Cicchito Botti, Bossi, Berlusconi o voto, le opposizioni chiedono basta agli attacchi e fermiamo la guerra civile fredda, è il commento, è il fondo a firma di Paolo Pombeni, che dice: la nota diffusa dal Quirinale, prendendo spunto dall'intervista di un esponente politico del PDL, è un documento che restirà testimonianza della serietà della crisi che stiamo attraversando. Letta con attenzione, essa solleva due problemi, uno esplicito di natura costituzionale, uno implicito, ma non meno serio, di natura politica. Evidentemente la Presidenza della Repubblica si è sentita in dovere di reagire al profluvio di dichiarazioni avventate che in questi giorni si sono fatte a proposito della fondazione di natura plebiscitaria del mandato del Presidente del Consiglio. Il richiamo insistentemente ripetuto alla sovranità popolare, che esprimendosi attraverso le elezioni sarebbe l'unica fonte di legittimazione del governo, sta suscitando grave equivoco. Infatti il testo e lo spirito della Carta del 48 non va in questa direzione. Se essa afferma che la sovranità appartiene al popolo, aggiunge che questi la esercita nei modi e nei limiti previsti dalla Costituzione e dunque anche nelle attribuzioni del Presidente della Repubblica e di quelle invece del Presidente del Consiglio. Questo il tema oggi sul Messaggero. Fermiamo la guerra civile fredda, quindi una preoccupata riflessione sulla situazione. Ultima segnalazione dal Foglio, la versione di Denis, ma che centrale di malaffare, Verdini replica le osservazioni della Banca d'Italia sul credito cooperativo fiorentino. Nessuno lo dice, ma quel documento spazza via cifre e illazione sparate da certi giornali. A questo proposito il direttore del Foglio firma col suo elefantino: i moralisti di Sputtanopoli, una riflessione per fare una persona un mostro, anche se solo del diritto bancario, ci vuole qualcosa di più che non le forbite cartelline di Banca Italia, le velenose ridicolaggini dei mozzorecchi, amichevoli considerazioni sul caso Verdini. E in una citazione breve del commento, appunto di questo commento, leggo: ho già detto che non metto la mano sul fuoco per Verdini, non avendo né titolo nemmeno come suo amico, e Verdini ha correttamente risposto che ci pensa lui, ma che sia in atto la mostrificazione, l'ennesima, di un uomo pubblico e che codesto procedimento sia di natura strumentale e politica, difficile dubitarne. Così scrive questa mattina Giuliano Ferrara. Allora sentiamo, 7:45, tempo di aggiornamenti per chi in viaggio. In primo piano. Avete sentito dunque, domani mattina problemi intorno a Linati, o meglio risoluzione di problemi ormai lasciati dalla storia. Naturalmente gli aggiornamenti continui su Radio 24 per seguire anche, diciamo, e muoversi intorno a questa giornata un po' complicata. Torniamo dunque alle nostre pagine, alle pagine di carta dei quotidiani che trovate in edicola. Vorrei ritornare sul matrimonio tricolore. Il matrimonio tricolore, quello naturalmente di Valentino Rossi, che passa alla Ducati e che oggi tutti i giornali, tutti i quotidiani raccontano il sogno Ducati per il Corriere. Valentino Rossi dice: sì, la Ducati è pazzo come noi, è invece quello di Repubblica, e così via. Sul Sole 24 Ore c'è invece un approccio, diciamo, specialistico, sportivo, economico, che sostanzialmente è il vale quanto vale, insomma. Valentino Rossi alla Ducati fa il pieno di sponsor. Questo è uno degli aspetti di questa vicenda. Con l'arrivo di Valentino stimato un incremento del 30% di contratti e di merchandising per 35 milioni di euro. Daniele Lepido ci racconta che L'ammontare delle sponsorizzazioni della Ducati ha sfiorato per il 2010 30 milioni di euro, anche se si tratta di dati non ufficiali. Il principale è Philip Morris, poi Alice, le Generali, la Enel, Riello, più altri marchi come Shell e Puma. La presenza di Valentino in Ducati, spiega Giovanni Palazzi, presidente della società di ricerca Stage Up, potrebbe valere un più 25% della parte sportiva, lavorando sul concetto di Made in Italy. Un concetto evidentemente molto forte, molto sentito e che sarà sicuramente, è facile immaginare, supportato non solo in termini sportivi. A lungo si è parlato dell'ipotesi di un Valentino Rossi sulla rossa Ferrari, e invece sulla rossa due ruote Ducati. Gabriele Del Torchio, in un'intervista appunto che trovate nella pagina Economia e Imprese del Sole, dice: insieme due icone del Made in Italy fatti per vincere. È durato molto il corteggiamento di Valentino, chiede il collega. L'operazione è stata lunga, diversi mesi che la nostra azienda aveva iniziato a parlare con il suo staff. L'accordo è stato raggiunto però solamente in luglio, con la firma formalizzata in agosto. Diciamo che a luglio era ormai certa la volontà delle parti di unirsi. E chissà quanto ci ha messo sul piatto anche la presenza interna di tanto rivale come appunto il compagno di squadra Jorge Lorenzo, ma questa è vicenda sportiva. Ancora invece dal Sole, prima di passare ad altre segnalazioni, vi segnalo l'intervista. Ne abbiamo parlato già due giorni fa di pensioni e torno a farlo sulle vie della ripresa. L'intervista al presidente dell'INPS: ultimato il cantiere delle riforme. La gobba pensioni, di cui appunto abbiamo parlato domenica, l'Italia è l'unica a legare età pensionabile e attesa di vita. Le stime sull'anticipo della cosiddetta gobba indicata al tempo della riforma Dini sono state formulate più di 12 mesi fa. Tutt'oggi noi non registriamo l'avverarsi di quelle previsioni. Il presidente dell'INPS, Mastrapasqua, scandisce le parole nel sottolineare come il sistema previdenziale italiano sia stabile e al riparo dagli strascichi, anche perché, sottolinea, a luglio con la manovra estiva è stata introdotta la più grande e definitiva riforma che attendeva il nostro sistema pensionistico. Bilancio e crisi economica, gli viene chiesto come appunto la crisi influirà sul bilancio 2010. Abbiamo messo i conti sotto controllo, dice, dal mio arrivo all'istituto chiudo i bilanci con avanzi finanziari mai registrati negli ultimi 40 anni. Insomma, sembra tutto bene, il problema però è l'incertezza della copertura previdenziale, soprattutto dei giovani. E risponde il presidente: completata la grande riforma, credo che oggi ci si debba dedicare a un altro aspetto importante, quello della conoscenza della cultura previdenziale. A questo proposito, allora, vi rinnovo l'invito ad ascoltare il nostro appuntamento delle 9, dove ci sarà ampio spazio per ascoltare, ma soprattutto per porre le vostre domande agli ospiti sul tema appunto della previdenza. Facciamo un salto oltreoceano. Ancora due giorni fa la notizia dell'ipotesi di costruzione di una grande moschea, di un grande centro islamico a New York, a pochi passi, si può sicuramente dire, da quelle che erano appunto il World Trade Center, le Torri Gemelle. La polemica conseguente oggi su questo tema, sicuramente molto complesso, molto delicato, che ha prodotto numerose riflessioni, si cimenta anche Gad Lerner, il miraneretto americano, e i timori di casa nostra, scrive oggi su Repubblica. È un articolo molto lungo, vi cito solamente qualche passaggio. L'ha spiegato Obama venerdì nel suo breve ma storico discorso: ad attestare la saggezza dei nostri fondatori, l'America è rimasta un paese profondamente religioso, una nazione dove persone di confessioni diverse sono capaci di convivere pacificamente nel rispetto reciproco, in netto contrasto con i conflitti religiosi tuttora in atto in altre parti del mondo. Forse è questa un po' la sfida realmente difficile, importante di Obama, sfida che sicuramente lo pone in una posizione di fragilità. L'abbiamo più volte detto, la reazione dei poll, dell'opinione pubblica, è complessivamente negativa a questa ipotesi. Alcuni dicono addirittura il 70% negativa tra la popolazione americana. A novembre le elezioni di midterm, quindi come dire, una patata bollentissima. In una battuta, può darsi che il presidente Obama sia spaventato dalle divisioni suscitate tra gli americani dal suo discorso, scrive Lerner. Domenica ne ha minimizzato le conseguenze, precisando che le sue affermazioni di principio non vanno considerate un'interferenza sulla decisione. Insomma, ha messo un attimo il piede sul freno, ma prima che sopravvenissero i vincoli della realpolitik e dal patrimonio della sua fede personale, che Obama ha attinto l'ispirazione profetica. Insomma, una vicenda che sicuramente seguiremo nei suoi sviluppi, che sicuramente ha a che fare con l'attualità anche drammatica dei rapporti tra le regioni, ma anche con la cultura molto americana del rapporto con la fede, che è forte, anzi spesso fortissima. Un'ultima segnalazione, abbiamo ancora qualche momento, lo prendiamo sempre da Repubblica, un titolino di taglio basso abbastanza inquietante: la terra va in riserva, finite le risorse naturali. Ora, la riserva ricorda ai più forse, come dire, estati in motorino, visto che siamo a metà agosto, più raramente ormai con le automobili, visto che insomma i segnali sono molteplici. Qui invece che cosa sta accadendo? L'estate va in riserva, scusate, ve lo vado a prendere. La terra intacca il suo capitale, risorse naturali finite in anticipo. Dall'acqua ai raccolti, dal 22 agosto consumeremo le riserve. L'allarme, scrive Antonio Cianciullo su Repubblica, viene dal Global Footprint Network, che da molti anni calcola l'impronta ecologica che corrisponde agli stili di vita. Se vivessimo tutti, scrive appunto questo network statunitense, se vivessimo tutti come gli cittadini degli Stati Uniti, avremmo bisogno di altri 4 pianeti per soddisfare le nostre esigenze. Se vivessimo come gli inglesi, ce ne vorrebbero 2,5. Gli italiani, noi italiani consumiamo meno, ma abbiamo comunque bisogno di un altro mezzo pianeta per arrivare appunto a soddisfare le nostre esigenze. Ma per arrivare a un bilancio pro capite in pareggio si devono dunque prendere i cinesi come punto di riferimento. Eccoci qua, siamo partiti dai cinesi, dalla loro formidabile corsa economica, ecco che le ritroviamo. Ma non solo cinesi, gli indiani invece usano addirittura ciò di cui hanno bisogno e lasciano le risorse di più di mezzo pianeta a disposizione delle altre specie. Ecco, forse anche questo è un elemento di riflessione, perché se combiniamo la nostra notizia di apertura, quindi della corsa continua dell'economia cinese e per estensione possiamo pensare anche all'India, con il fatto che questi due popoli, e quindi complessivamente ben più di 2 miliardi di persone, in realtà sono tra i pochi che consumano meno di quanto la terra è in grado di mettere a loro disposizione, a noi a disposizione, beh, insomma, c'è da riflettere un poco su questa notizia. E direi che con questo siamo arrivati alla conclusione, anche perché intanto Irene Zerpini è tornata a raggiungermi in studio. Quindi un cambio di posizioni ai vertici della classifica delle economie mondiali, secondo te porterà anche un cambio di cultura, di riflessione, di mentalità? Credo che sia già accaduto, che la cultura, d'altra parte parliamo di Cina, forse anche l'attenzione che poniamo al termine, se fossimo legati al mondo di Facebook, diremmo che taggando Cina ormai il nostro cervello innesca tutta una serie di riflessioni, quindi sì, senz'altro. Una serie di sinapsi, taggando Cina, mi piace questa espressione. Grazie dunque a Gigi Donnelli, caporedattore di Radio 24, tutta la settimana insieme a noi per la lettura dei giornali, la rassegna stampa del mattino. Tra pochissimo invece il giornale radio con le ultime notizie, poi ci ritroviamo alle 8:15 con l'Osservatore Internazionale. In questo caso, durante l'estate, un corrispondente straniero che racconta l'Italia, portando la sua prospettiva di lettura e il suo punto di vista. 8:30, bianco o nero. Oggi vi chiederemo, è scattata una nuova ordinanza che prevede chiusure anticipate per kebab, bar, ristoranti, centri massaggi in un'altra area di Milano considerata a rischio degrado. Si tratta di Corso Lodi e dunque dopo via Padova si ricorre al coprifuoco ancora una volta in un centro metropolitano, mentre insorgono le associazioni dei commercianti perché dicono si spostano i problemi da un quartiere all'altro. Secondo voi, invece, il coprifuoco è una soluzione per i quartieri degradati di qualunque città d'Italia? www.radio24.it per votare. A più tardi. 24 mattino estate. Rapporti combattuti, rapporti d'amore, rapporti con tanti punti interrogativi. Sono queste le relazioni che abbiamo visto intrecciano i corrispondenti stranieri che dall'Italia la raccontano poi nel loro paese d'origine. Gunaydın Elvan. Gunaydın. Come l'ho detto? Perfetto. Questo buongiorno in turco non è facilissimo per me. Elvan Uysal è l'ospite di oggi, giornalista e scrittrice turca, che ha raccontato non solo l'Italia, ma addirittura ha deciso di partire da delle prospettive molto particolari per farlo. È partita infatti a un certo punto perfino dalla cucina. E ce lo racconterà tra poco. Allora, ancora una volta, buona giornata da Irene Zerbini. Mentre sfoglio questo Mamma Mia, scritto in italiano, e poi una scritta in turco, un sottotitolo, che tradotto vuol dire più o meno tutto quello che volevate chiedere sulla cucina italiana, ma non potevate chiederlo alla vostra mamma. A traduzione un po' farraginosa, Elvan, la provi? Eh sì, perché nel libro c'è anche molto del cinema italiano e ho voluto fare questo titolo che richiama un po' il film di Woody Allen sul sesso, che alla fine il sesso ripaga sempre, quindi volevo un po' fare questo trucco della cucina, sesso, le mamme, fare un po' birichina, diciamo. Un po' la birichina, hai messo degli ingredienti che piacciono in generale. Ma andare a cucinare con le donne italiane è stata la tua scelta per capire anche un po' di più questo paese. Da quanti anni ci abiti? Io vivo in Italia da 10 anni. In realtà io conosco abbastanza bene la cucina italiana, sono una grande mangiona, ma non mi sarei permessa di scrivere delle mie ricette non essendo italiana. Quindi ho usato il mio lato giornalista, ho rubato delle ricette tradizionali delle famiglie, diciamo. Questa è stata la mia idea. Quando io vedo un libro pubblicato in Turchia sulla cucina italiana, ci sono delle, non so, i ravioli, solite cose, però ci mancava il contatto con la casa italiana, che secondo me è l'ingrediente più importante della cucina italiana. E io avevo un schermo abbastanza razionale, una mamma per regione, però diciamo che poi il libro ha preso il controllo e l'idea era scegliere una persona, fare una piccola scheda e poi cucinare insieme e dare le ricette di questa persona. Invece noi abbiamo cominciato prima andare al mercato e scegliere delle cose. Quindi una volta andata al mercato c'era un colore locale che dava un altro colloquialità. Cioè tu hai fatto una specie di cooking show, che va per la maggiore anche nella TV nordamericana, partendo dall'acquisto e non per parlare poi del prodotto finale inteso come piatto, ma per dare tutte queste annotazioni sulla vita in Italia. E quali sono 3-4 esempi che ti sono rimasti impressi, incontri, esperienze in queste regioni che hai attraversato? Ma devo dire che tutto è stato un'esperienza meravigliosa. Io ero venuta in Italia perché ero innamorata di Roma, era stata proprio una scelta, non è che mi hanno mandato, io sono venuta qui, ho trovato il lavoro, eccetera. Però dopo 10 anni c'era un disinnamoramento con queste donne che mi hanno aperto le loro porte. Io ho riscoperto perché ero innamorato di questo paese, veramente. E perché? Facci partecipi. Allora, e queste erano delle donne che io non conoscevo per niente. Cioè, buongiorno, buongiorno, ci mettiamo a cucinare. Quindi questa, diciamo, generosità, ricchezza, ma non solo aprire loro cucina, che è un'intimità veramente, è una cosa intima, ma anche la storia delle loro famiglie, cioè le loro storie, la loro vita, diciamo che i fornelli, quando si mette a cucinare con quel calore, nasceva un'amicizia, ma magari uno ci avrebbe messo una decina di anni. Quindi mi hanno raccontato delle cose che alla fine, adesso in libro, la cosa che interessavo di più, anche la casa editrice, è una storia di queste donne che prevale. Più che il piatto finale, chiaramente. Sì. E quindi hai scoperto che il cibo, tra l'altro, anche etnico, inteso come diverso da quello della propria cultura, abbatte agevolmente molte, molte barriere. Hai parlato del tuo disinnamoramento per l'Italia. Immagino che, essendo tu turca, abbia dovuto nel corso della tua permanenza fare i conti anche con dei pregiudizi verso i turchi. Molto. Io ero venuta in Italia che avevo meno pregiudizi nei confronti dei stranieri in generale, però avevano un pregiudizio molto forte nei confronti dei turchi, non si conosceva bene, dicevano delle cose tipo: ah, ma c'è chi mi ha detto, quando ho detto che sono turca, ma tu sei bella, cioè come se i turchi devono essere tutti brutti. Delle cose veramente da barzellette. Per esempio, una volta sei stata fermata e beccata, diciamo così, senza biglietto su un autobus di Roma. Cos'è successo? Sì. Cioè, era una giornata che erano i primi giorni del mio innamoratamento con il mio marito attuale, che era uscita da casa da donna innamorata senza il portafoglio. Mi hanno fatto scendere e io dicevo la mia storia, che non ho il portafoglio. Mi hanno controllato la borsa, che dopo mi hanno detto che non era il loro diritto di fare quella cosa. E poi la cosa che mi ha ferito proprio, che la signora mi ha fatto: ah, solito straniera. C'è tutte queste storie, e ha detto: io adesso chiamo la polizia, faccio i denti, perché non avevo neanche carte d'identità, niente. In quel momento quel solito straniero mi ha ferito tantissimo, essere quella solita straniera, non so, in un paese che tra l'altro avevi scelto perché l'apprezzavi. Uno scontro con i cliché e col senso comune verso stranieri in generale e verso persone che vengono da paesi di cui si parla poco o sempre con lo stesso taglio. Ti sei occupata anche della donna musulmana nel cinema recentemente. L'Islam si conosce poco e si conosce male, e la donna musulmana ancora peggio, perché della donna musulmana c'è questa idea afghana in burka. Invece nel mio libro io sono partita con la prima attrice musulmana che ha avuto il coraggio di andare sul palcoscenico, che è una donna turca, che poi ha aperto la strada a altre attrici, altre registe e tutto quanto. Quindi io penso, mi fa piacere pensare che nel cinema musulmano c'è questo contributo delle donne che adesso vediamo nel cinema iraniano, nel cinema turco, tunisino, con tantissime donne in gamba che tornano sempre con dei premi dai festival vari. E quali sono gli ultimi articoli che hai scritto dall'Italia? Cosa hai raccontato? Delle cose che hanno trovato più spazio sono stati un speciale sulla Dolce Vita, il film, e poi un altro sulla Carnevale, la tradizione di Carnevale in Italia. Tutto il cinema italiano è molto apprezzato in Turchia, abbiamo un festival di cinema a Istanbul, ogni anno sicuramente c'è un regista, un omaggio a un regista italiano in un modo o l'altro. E poi ultimi anni, non so se avete seguito, ma il cinema turco è in grande ascesa, cioè i cineasti turchi spesso prendono i premi e spesso citano tra loro ispirazione soprattutto Antonioni. Elvan, cosa porteresti in Turchia dall'Italia? Adesso io sto partendo e sto proprio fra un paio di ore vado a Istanbul e sto portando olio d'oliva, e vino, pasta e il riso. Sulla tolleranza sei stata intervistata una volta e una tua frase sulla tolleranza così è rimasta una specie di pietra miliare di quello che l'Italia dovrebbe fare con gli stranieri. Cosa pensi delle parole accettare e tollerare? A me non piacciono, accettare e tollerare io trovo un po' presuntuoso e anche di una certa arroganza e intolleranza in sé, perché chi sono per accettare l'altro, chi sono per tollerare l'altro? E allora cosa bisognerebbe fare invece di utilizzare questo vocabolario, questo approccio così gerarchico? Ma capire, no, non so, capire e convivere senza anche questionare, direi. Grazie Elvan, ciao e buona giornata. Grazie, ciao. Elvan Uysal, l'avete sentita, è la corrispondente dall'Italia per la Turchia per diverse testate, come spesso succede con i freelance. Ha lavorato per anni per l'agenzia di stampa IHA e per il National Geographic Channel. Incontreremo un altro corrispondente straniero e dunque un altro paio di occhiali, possiamo prendere a prestito questa definizione di un ascoltatore, un paio di occhiali per guardare l'Italia in maniera diversa domani mattina, come sempre alle 8:15. Siamo arrivati al giro di boa di Bianco Nero, dove le opinioni espresse possono essere le vostre, e dunque vi diamo alcuni riferimenti. I messaggi SMS possono essere mandati al 349-238-6666 per partecipare alla discussione, e il numero telefonico è l'800-24-00-24. A Milano è scattata la nuova ordinanza che prevede chiusure anticipate per kebab, bar, ristoranti, centri massaggi in un'altra area. A marzo il sindaco aveva dato l'ok a una serie di ordinanze di questo tipo intorno alla zona di via Padova. C'erano stata la chiusura anticipata di esercizi commerciali considerati, diciamo così, a rischio, come centri massaggi, phone center, take away. E a maggio il provvedimento era stato esteso a un'altra zona multietnica di Milano, Paolo Sarpi e dintorni, la cosiddetta Chinatown, perché non abitasse nel capoluogo lombardo. Oggi è il turno del quartiere Corvetto, con l'estensione di questo coprifuoco anche a un tratto di Corso Lodi che va da Brenta a Piazzale Lodi alle vie laterali. Ma al di là di Milano vogliamo coinvolgere tutti voi che anche nel resto d'Italia naturalmente siete alle prese con problemi di questo tipo, aree considerate a rischio degrado, come si dice. Secondo voi il coprifuoco potrebbe essere la soluzione per i quartieri degradati? Votate al nostro sondaggio www.radio24.it. Ben ritrovati ancora una volta al microfono Irene Zerbini. Partiamo da un sondaggio che in questo momento ha totalizzato un 37% di sì e un 63% di no. Non ha nessun valore scientifico, naturalmente, sono solo gli ascoltatori di Radio 24. Oggi abbiamo chiesto loro cosa pensate di questi provvedimenti che, per esempio, la giunta del capoluogo lombardo definisce necessari per la sicurezza. Sono una soluzione per i quartieri degradati? Punto di domanda, www.radio24.it, e vedremo se al termine della discussione, chissà, abbiano questi provvedimenti guadagnato qualche punto in più o qualche punto in meno. Partiamo con un 37-63% alle 8:31 del mattino. Ringrazio per la sua presenza Riccardo Decorato, vice sindaco di Milano. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a voi. E Stefano Maulo, assessore al commercio della regione. Buongiorno. Buongiorno a voi tutti, buongiorno. Insieme a noi ci sarà anche un milanese, qualcuno che ha adorato Milano vivendola a fondo per la sua musica, il polistrumentista, chiamiamolo così, perché musicista forse neanche lo definisce, Mauro Pagani, fondatore della premiata Forneria Marconi, autore del libro Foto di gruppo con chitarrista, che racconta una Milano diversa da quella a cui ci abituano le cronache in questi giorni. Con noi anche Barbara Vettori, sociologa della devianza all'Università Cattolica di Milano. Buongiorno. Buongiorno professoressa. Salve, buongiorno. Corso Lodi, operazione sicurezza, cominciamo da un titolo, divisi residenti e commercianti, questo è il titolo della cronaca di Milano del Corriere della Sera oggi martedì 17 agosto. Un viaggio nel quartiere, praticamente questo articolo. Corso Lodi semi chiusa per ferie, aspetta le pattuglie, si interroga, si divide nei pochi caffè aperti sull'efficacia delle regole d'emergenza. violenza e più spesso le ignora, ci racconta il cronista. Intanto gli esercenti bocciano il provvedimento che prevede chiusura dei kebab alle 24, stacca la musica alle discoteche alle 3 con 2 ore d'anticipo e ancora chiusura di tanti negozi in un orario predeterminato. Ma facciamolo dire a chi l'ha varata questa ordinanza, al vice sindaco, qual è il senso, qual è lo scopo di questo provvedimento, Riccardo Decorato? Il senso e lo scopo ce l'hanno indicato i residenti. Noi abbiamo avuto la richiesta da tutte quelle vie interessate dall'ordinanza, dai comitati di cittadini, di una concentrazione di attività commerciali che portano queste attività disturbi di vario tipo. Di quale attività sta parlando nello specifico, scusi? Di attività che riguardano la ristorazione, che riguardano discoteche, bar. Sono attività che portano anche in alcuni casi molto degrado. Lì a Corvetto c'è un bar che è un noto locale di spacciatori, di spaccio di droga. È stato chiuso più volte dalla questura. Poi parlare di coprifuoco è veramente al di fuori di ogni... Si tratta di riduzione di orari. Siamo in orari che si riducono di un'ora, di 2 ore. Parlare di coprifuoco mi sembra veramente... C'è un'esagerazione che è mediatica. Media allora parliamo di questa riduzione d'orario... Parliamo di riduzioni di orario di 1 o 2 ore per centri massaggi, phone center, kebab, macellerie islamiche e attività che sono in prevalenza di carattere etnico, che si sono concentrati in alcuni quartieri di Milano. Perché basta girare Milano, chi conosce Milano, via Padova non può essere paragonata a Corso Vercelli. E c'è una realtà di attestazione di attività che sono etniche, che vanno oltre gli orari, anche quelli normali di chiusura. E quindi lei non accetta la parola coprifuoco e dice solo una riduzione d'orari di 1 ora o 2 e se ci sono attività illecite, dunque rispettando la terminologia che avete adottato voi in giunta, com'è che una riduzione di orari, una chiusura di 1 ora anticipata può riportare una situazione alla legalità? Guardi, quando si fa l'ordinanza, in quella via viene disposto un servizio di ordine pubblico di polizia, carabinieri, di una certa quantità peso di uomini, sì, che serve per la parte, diciamo, relativa ai reati. Poi c'è una parte di disturbo, di degrado, che riguarda il fatto che un'attività commerciale, come una macelleria islamica, che dovrebbe essere chiusa alle 22, continua a essere aperta fino alle 24, alle 25. Cioè 24, scusi, va avanti, sì, anche sì, 25 punto, sì, abbiamo capito cosa intendeva, certo. Questo è chiaro, no? Questo è il problema, che molte volte queste realtà etniche, i phone center, non rispettano nemmeno i normali orari di chiusura e allora l'attestazione fuori, al di fuori di queste attività commerciali, di decine e decine di persone in orari serali e notturni, crea notevoli problemi di degrado della via e del quartiere. Ma le aperture serali in una città che guarda soprattutto all'Expo a diventare sempre di più una città internazionale non dovrebbero regalare quella dimensione di vitalità che rende attraenti poi le metropoli dove andiamo in vacanza, per esempio da Londra a New York, attraggono proprio per questo senso di vita e di attività e di mancanza di chiusura? Desertificare le strade funzionerà secondo lei? Io non credo che a New York di sera si vada nel Bronx o si vada in quartieri degradati. Di sera si va nei quartieri dove si vive la realtà della movida. A Milano c'è i Navigli, Brera, Corso Sempione. Lì la città vive, basta girare Milano di notte, è una città molto viva. È chiaro che in alcuni quartieri di periferia non si vive questa realtà notturna così felice come la racconta lei. Si vive una realtà molto più pesante. E allora noi dobbiamo cercare di dare almeno ai cittadini residenti in quel quartiere almeno il segnale che c'è lo Stato, che esiste, che il Comune è lì per far rispettare gli orari di chiusura delle attività commerciali e che questi quartieri non sono abbandonati a situazioni di degrado che si creano grazie al fatto che la legge Bersani del 95 ha tolto ogni possibilità ai comuni di disciplinare le presenze commerciali nelle vie e nelle strade. Allora, legge Bersani, stiamo parlando di un decreto legge che garantiva il regime di libera concorrenza, assicurare il corretto... Noi non possiamo più disciplinare nessuna attività commerciale... Sulle distanze minime obbligatorie tra attività commerciali, lei dice. Esatto. Dunque, grazie al vice sindaco per ora e diamo la parola anche all'assessore regionale al commercio. Maulu, lei ha detto le ordinanze sono utili solo se durano quanto l'emergenza che devono contrastare, perché rovinano il nome e l'immagine di una via. Ma è un discorso un po' più complesso, nel senso che credo che abbiano una funzione di deterrenza se sono, come dire, concentrate in un aspetto temporale molto breve. Questo per un semplice motivo: occupandomi di commercio, credo che il commercio abbia, come dire, una valenza economica fortissima, un po' quella che sottolineava lei, a maggior ragione in una città metropolitana, ma è una valenza economica ma anche sociale, cioè ogni negozio aperto rappresenta, come dire, un presidio pro criminalità se ben gestito. E io credo che questo vada incentivato, tant'è che in Regione Lombardia abbiamo costruito i distretti del commercio finanziandoli, lo abbiamo fatto anche con Milano e con buoni risultati. Io credo che, come dire, la strada debba essere quella del sostegno alle attività commerciali di vicinato, quindi abbiamo pronto un bando per i primi mesi dell'anno, per questi primi mesi dell'autunno, che tenda ad aiutare le attività commerciali e a finanziare di nuovo i distretti del commercio. Dico questo per un semplice motivo: l'obiettivo deve essere, attraverso le attività commerciali, a mio parere, di far vivere il quartiere e, come dire, restituirlo ai cittadini. Ed è naturale che qualsiasi persona, ritornando dalle vacanze, sente questo stacco tra le grandi metropoli europee, probabilmente quello che in questo momento in qualche quartiere la città non può offrire. Ecco, io credo che il lavoro che si debba sviluppare debba andare in quella direzione. Ma così come si possono disciplinare adesso vogliamo appunto portare avanti questa discussione in maniera serena, perché sono prospettive di vita di chiunque abita in una città, certo, e non solo a Milano. Ha detto il vice sindaco Riccardo Decorato, tra l'altro fate parte entrambi del Popolo della Libertà, che certa vita notturna, certa vitalità, anche il famoso residente che rientra dalle vacanze, come l'ha definito lei, se lo può aspettare solo sui navigli, solo in certe zone, non si può paragonare Corso Vercelli alle periferie, come se sulle periferie avessimo bisogno di un altro tipo di politica e di aspettative. Quindi Milano, quando parliamo di Milano, continueremo a riferirci sempre soltanto a degli standard del centro, secondo guardi, lei? Cioè, voi siete gli assessori di tutto, comunale e anche consigliere di circoscrizione nella periferia milanese. Quello che mi aspetto è che, se vado a Baggio, di trovare la trattoria che d'estate mi permette di cenare sino oltre la mezzanotte. Un contesto che non può essere ovviamente quello di Corso Como, piuttosto che la movida di Corso Sempione, più periferico, magari anche più vero. Il mio obiettivo è fare in modo, come assessore al commercio, di garantire a queste attività di poter prosperare. Questo perché la periferia ha un'identità, penso a Baggio, ma anche alla Bovisa, un'identità storica che va preservata. E devo farlo questo attraverso le attività commerciali, a maggior ragione con i locali di somministrazione. Credo che si possa fare un altro lavoro. La tutela dei residenti può avvenire attraverso una serie di controlli o un regolamento. Guardi, noi stiamo lavorando anche sull'applicazione della Bolkestein, la famigerata direttiva comunitaria che, come dire, permette la liberalizzazione totale, ma creando una sorta di griglia di qualità che deve consentire l'apertura possibile per tutti, a patto che si rispettino una serie, di ambiti di integrazione. Devo avere i parcheggi per chi apre una nuova attività, devo avere una soglia del rumore che non può essere superata, ma che anche oggi, volendola applicare attraverso l'ARPA, cioè vita e vitalità, ma questo può avvenire all'interno di certe regole che permettano anche a chi risiede, insomma, di non vedersi lesione ai diritti, io al sonno, al riposo. Sì. E a questo punto 800 24 00 24 per le vostre telefonate. Riccardo Decorato, da quanto tempo lei lavora al comune, o è stato eletto a una carica elettiva al comune di Milano? Io sono stato eletto consigliere comunale a Milano nel 1985. E quando attesta queste situazioni di degrado di questa città, non è un po' attestare anche una sconfitta di una certa politica? No, perché la sconfitta è di quella politica, per esempio la legge Bersani, che liberalizzando le attività commerciali ha costretto i sindaci a prendere atto di una situazione di fatto che si crea e che non è uno strumento che il comune può, perché è una legge dello Stato e quindi il sindaco è tenuto a fare applicare. Per cui non è il sindaco che decide se in Corso Lodi ci devono essere 5 kebaberie o 4 macellerie islamiche o 5 attività commerciali, che so io, di call center o di centri massaggi. Questo lo stabilisce una legge dello Stato e automaticamente il cittadino residente a Milano che fa una certificazione commerciale manda un'autocertificazione al comune e apre l'attività. Che responsabilità ha il sindaco se in via Padova si concentrano determinate attività piuttosto che in Corso Vercelli? Tornando alla questione di via Padova, si era detto anche che si sarebbe applicato il massimo rigore ai contratti d'affitto, perché in questi alloggi in cui si ammassano persone che si dividono camere, naturalmente corrisponde, viene erogato un affitto in generale a un cittadino italiano che spesso non deposita nemmeno il contratto. E sono stati fatti controlli? Quante multe sono scattate in questa direzione? Sì, si è guardato molto all'aspetto commerciale, invece c'è una seconda ordinanza, come lei ha ricordato adesso, che riguarda il deposito di contratti di affitto da parte di proprietari oppure di persone che sono inquilini. Questa attività in via Padova, ma anche al Corvetto iniziata, come anche in via Paolo Sarpi, è un'attività che mira a far uscire allo scoperto coloro che affittano in nero appartamenti dove vivono magari appartamenti che hanno un'agibilità per 3 persone. Sì, sì, e qualcuno ci guadagna chiedendo affitti a 8-10 esatto, persone. Con affitti in nero, dove vivono 10, 20, 30 persone, dove addirittura si fanno i turni, c'è chi dorme di giorno e chi dorme di notte. Questa situazione è venuta a galla. A via Padova abbiamo individuato addirittura interi casseggiati, abbiamo chiesto più di 32 sequestri di appartamenti, però l'autorità giudiziaria non ne ha ancora ad oggi nemmeno uno, non ha convalidato il sequestro di uno solo di questi appartamenti, pur essendo appartamenti dove c'era gente sfruttata che veniva, che pagava affitti molto alti e si dormiva in 20, in 30, in case dove c'era un'agibilità per 3 persone. Quindi avete chiesto il sequestro di questi 32 stabili? Sì, e di questi signori, esatto, che invece senza avere affittano, la convalida di uno ancora. Senza averla qua. E intanto, passando per via Padova, alcuni stranieri arrivati anche quest'estate ci hanno chiesto cosa fosse successo, se fosse Belfast, perché vedendo queste camionette così delle forze dell'ordine schierate, non è che si dia proprio una bella immagine di città internazionale pronta ad ospitare l'Expo. Guardi, da qui a 5 anni. Volevo decorato, la facciamo parlare e assolutamente, ma tra pochissimo, perché dobbiamo un attimo andare sulle strade d'Italia a controllare la situazione del traffico. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero. Ancora buongiorno da Irene Zerbini e stiamo cercando di capire a cosa porterà quest'ordinanza definita da coprifuoco. Non piace a chi l'ha scritta, ma si poteva anche immaginare che questa, che è stata definita una esagerazione giornalistica, sarebbe così sorta di fronte a una similitudine. Abbassare le saracinesche a una certa ora, è lì la tentazione di chiamarla coprifuoco, e infatti non si sono sottratti i quotidiani e gli organi di stampa. Noi la chiameremo ordinanza, con lei decorato vice sindaco di Milano, con Stefano Maullo, sempre del Popolo della Libertà, assessore al commercio regionale. Concludiamo un attimo anche la parte della politica per lasciar voce agli ascoltatori. E decorato, stavamo parlando di questa immagine di Milano un po' come Belfast, queste forze dell'ordine schierate in via Padova, poi lei ce ne ha annunciate altre altrove, e lei voleva fare un punto, prego. Anche qui si tratta di un'esagerazione, perché noi abbiamo pattuglie militari in 36 zone di Milano, è l'operazione Strade Sicure varata dal Ministro dell'Interno e dal Ministro della Difesa, che da un anno vede pattuglie di militari a Baggio, alla Bovisa, alla stazione centrale, quindi non ci sono militari solo in via Padova, quindi è un'immagine questa, anche questa, forzata ed esagerata. Io le faccio presente che i commercianti di via Padova del secondo tratto di via Padova, perché via Padova è divisa in due tratti, una va da Loreto al ponte e l'altro va dal ponte fino all'uscita verso le autostrade per Venezia. Bene, la seconda parte, che non è stata convalidata dal TAR perché c'è stato un ricorso da parte di due commercianti, i commercianti dell'altra parte di via Padova mi hanno chiesto, dopo che il TAR ha bocciato quella parte di ordinanza che riguardava la seconda zona di via Padova, sì, mi hanno chiesto di estendere, di continuare ad estendere la ordinanza anche per la seconda parte, perché sì, quando sì, abbiamo lei dice, tolto è una richiesta che viene. I militari, loro si sono trovati nuovamente in seria difficoltà nei confronti del degrado della situazione di criminalità. E poi ci sono anche quelli che hanno venduto e se ne sono andati, va detto anche questo, così come ci sono commercianti che sul provvedimento antidegrado hanno detto ma anche la sicurezza sarebbe presidiare meglio la città, attenzione, il coprifuoco non è la soluzione, io sto parlando in questo caso anche di associazioni di categoria riportate ieri. Comunque, dal Corriere della ordinanze. Sera. Decorato, abbia pazienza, le abbiamo dato voce, ma dobbiamo lasciar parlare anche gli ascoltatori che ci hanno raggiunto all'800 24 00 24. Pronto, Antonio? Sì, buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno. Vi invito alla sintesi, venga al punto, Antonio. Ah sì, semplicissimo. Scusi. Io circa un anno fa sono uno di quelli che ha venduto, abitavo in via Altaena, via Pavese 12, centralissimo, centro della Movida, anche su suggerimento proprio del signor Decorato, che in una riunione disse chiarissimamente, proprio una mia domanda, io non posso più dormire a casa mia, mi disse, ma vendi pure, tanto farai un sacco di soldi perché avrai comprato prima e venderai e farai tanti soldi. Io ho venduto veramente, ma con enorme tristezza, me ne sono andato da Milano, una città che mi ha dato tanto, mi ha dato l'istruzione, ho fatto la Bocconi lì, ho vissuto, mi sono sposato, ho fatto famiglia e ho deciso di farla crescere lontano. Non la ritengo più vivibile, non la ritengo più una città a dimensione uomo, la ritengo più una dimensione commerciante. Il signor Decorato continua a parlare di commercianti, di soldi, benissimo, fatene un'industria, non è più una città, è una serie di uffici e di attività. Antonio, abbiamo colto la sua amarezza anche per una scelta personale che forse non avrebbe fatto altrove, ma sentiamo Luigi, pronto, buongiorno. Sì, buongiorno a lei, molto presente. Brevemente, sì. Da dove volevo... chiama? Da dove chiama? Io chiamo da Livorno, anche se sono in automobile. Sì, ora sì, sto sì, da Livorno. Andando giusto verso Milano. Mm. Ascolti, io credo che ci sia un equivoco perché c'è un po' di confusione fra diciamo quelli che possono essere dei reati, cioè la presenza della polizia e dell'esercito, e quelli che sono gli eserciti commerciali. Se esistono delle regole, dovrebbero essere le stesse per tutta Milano. Io non so a Corso Sempione o sui Navigli a che ora chiudono, ma perché ai Navigli possano chiudere a un'ora diversa rispetto in queste nuove zone? Perché i residenti, diciamo, in Corso Sempione sono diversi dai residenti in queste altre zone. E questo mi pare un assurdo. Grazie, grazie per la domanda. Velocissimo, Luigi. Va bene, salve. Grazie, grazie. È purtroppo una questione di tempo e non certo di voglia di terminare la discussione, che sarebbe complessa e interessante. Nonostante la crisi, le imprese individuali con un titolare immigrato extracomunitario sono arrivate a quota 37.645, solo quelle nate nel 2009. Questo è il rapporto Unioncamere. In tutto sono 251.000 e quindi fa parte ormai della realtà del commercio, la realtà dell'imprenditore immigrato. Ma noi non dovremmo favorire chi vuole intraprendere invece che ostacolarlo. Comunque vogliamo dare la parola anche alla sociologa della devianza dell'Università Cattolica di Milano, Barbara Vettori. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno. Grazie. E lei osserva così da una cattedra, dall'accademia, dal mondo dell'università, questa realtà di cui stiamo parlando. Che idea se n'è fatta, visto che ormai la sociologia dell'urbanismo, delle metropoli e di ciò che induce al comportamento criminale è ben sviluppata, cioè non si tratta più di teorie, ci sono stati esperimenti e modelli che funzionano e che hanno funzionato e altri che hanno funzionato meno. Qual è l'opinione dunque? Sì, dunque i criminologi e gli architetti ormai da tanti anni che si parlano e che hanno pensato a varie soluzioni per migliorare l'architettura urbana e renderla a prova di reato, diciamo. Quindi quello che ci insegna questo lungo filone di ricerca che si è sviluppato prima negli Stati Uniti e poi anche da noi è che ciò che è importante è avere sempre un occhio sulla strada. E in cioè cosa significa? Possono essere un occhio sulla strada. Cosa vuol dire avere un occhio sulla strada? Ovviamente si tratta di un filone che ci parla più che di chiusura anticipata degli esercizi, ci parla di sicurezza partecipata, ci parla di commercianti che sono l'occhio sulla strada perché nel momento in cui svolgono le loro attività, anche in modo del tutto involontario, danno appunto un occhio sulla strada, la controllano in modo informale, quello che si chiama per l'appunto controllo informale. Quindi ci parlano di un approccio molto diverso da quello di cui abbiamo parlato finora, in cui l'ordine pubblico non è tanto e solo un problema della polizia, un problema da far gestire la polizia. Ma compartecipato, abbiamo capito il termine, ma professoressa abbia pazienza. E un caso concreto, cioè qui stiamo parlando di situazioni, l'ha sentito anche dal vice sindaco, di degrado tra virgolette, in cui ci sono problemi e di disturbo della quiete pubblica e problemi legati ai rifiuti e problemi di microcriminalità. Un caso concreto in cui partendo da una realtà simile si sia arrivati a un risultato, ce lo può offrire la sociologia? Assolutamente, la sociologia ci offre moltissimi casi, in particolare moltissimi casi ci sono offerti da questo architetto che si chiama Newman, che negli Stati Uniti ha rivoluzionato l'architettura e ha reso l'architettura anche dell'edilizia popolare, anche dell'edilizia pubblica, quindi laddove i costi, laddove le risorse a disposizione sono minori, l'ha resa più sicura. C'è un caso, si parlava prima, tra l'altro mi sembra che il vice sindaco abbia proprio nominato così il Bronx. Bene, c'è un caso del 69 interessantissimo in cui per la prima volta questa idea di spazio difendibile di Newman ha successo nella pratica. Cos'è questa idea di spazio difendibile? Io devo far sì che una comunità si riappropri del territorio, perché a quel punto sarà il guardiano più importante di quel territorio. Bene, c'è stato questo esperimento. Quindi riportare la gente in strada. Nel 69 c'è stato questo esperimento in questa comunità del Bronx estremamente degradata. Quali sono stati gli interventi? Molto semplici, ad esempio rendere utilizzabile e fruibile un'area centrale inutilizzata, mettendo delle panchine per gli anziani, un tipo di suolo dove i giovani, i bambini potessero giocare, mettere dell'illuminazione. Quindi delle strategie molto semplici ma anche molto pratiche che hanno fatto sì che le persone utilizzassero e sentissero più loro delle aree pubbliche che prima non venivano utilizzate se non dai trafficanti di droga. In questo modo, con questi senso d'appartenenza dunque e incentivo a riprendersi i propri territori da parte della società civile. Vorrei tornare un attimo a Stefano Maulo, che ha una responsabilità più larga di Milano perché è assessore regionale. Si parla sempre di più di allarme Milano e si parla pochissimo di speranze per Milano, ma è una realtà a sé anche nel territorio lombardo? Ma guardi, Milano ha, tenga conto, come dire, la maggiore estensione con la grande Milano, non la sola città ovviamente, un grandissimo bacino d'utenza. Credo che ci siano realtà metropolitane che hanno più o meno gli stessi problemi, penso a Brescia. Se lei mi permette, è molto interessante quello che diceva la professoressa di sociologia, Vettore. Tant'è che i distretti commerciali vanno in quella direzione, finanziano interventi che tendono a mettere in rete i negozi, quindi con una programmazione commerciale, una suddivisione delle referenze in maniera tale che la concorrenza non sia, come dire, cannibalizzante, ma crei le condizioni per un'armonia, una programmazione, ma soprattutto un grandissimo lavoro di arredo urbano, di illuminazione, tutto ciò che rende, come dire, appetibile questo distretto per tutti coloro che vogliono fruire dei servizi, che non sono la segnaletica stradale, non dimentichiamola. Come? La segnaletica stradale, anche la quella. La segnaletica stradale, sono tutte ce la cose segnalano che i nostri ascoltatori, quindi vi faccio partecipi naturalmente degli stimoli e degli spunti per rendere più vivibile questa città, che viene guardata, osservata, non solo perché ospiterà l'Expo, ma anche perché si è guadagnata un nome nel senso collettivo internazionale. Qual è questa vocazione di Milano a cui lei fa riferimento? Perché si discute sempre internazionalizzazione, l'anima di questa grande metropoli, e poi ci si riduce a andare avanti per ordinanza, insomma. Qual è questa vocazione di Milano? Un aspetto, come dire, utile, necessario in certi momenti, devono essere, come dire, contingentate, perché la vocazione di questa città è una vocazione squisitamente commerciale. Lei pensi semplicemente al peso in termini di arrivi che ha il sistema fieristico. Tra qualche settimana, a settembre, avremo le prime fiere, le più importanti, dalla moda al mobile a tutto quello che fa vivere la città. Io credo che l'immagine che debba uscire sia quella di una città viva, una città con la gente in strada, una città che ha la possibilità, come dire, di creare ricchezza anche attraverso il commercio, soprattutto attraverso il commercio. Grazie a tutti voi che ci avete seguito. Non è solo il commercio, ma anche la cultura, la vocazione di Milano e la segnalazione degli ascoltatori. Vi avevamo promesso anche una conversazione con Mauro Pagani, che è stata rimandata per un imprevisto che lui ci ha segnalato non precisato, e ringrazio invece per il suo tempo e per la voglia di mettersi in discussione il vice sindaco di Milano Riccardo Decorato. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a Stefano Maulo, Popolo della Libertà, a sua volta assessore regionale al commercio, e alla sociologa della devianza all'Università Cattolica di Milano, Barbara Vettori. Da Irene. Grazie, buongiorno. Buongiorno. L'appuntamento a domani. A questo punto, sì, i coprifuoco possono aiutare, hanno raggiunto quota 39% tra il pubblico di Radio 24. No, non è il coprifuoco la soluzione per i quartieri a rischio. Continuate a votare su www.radio24.it. Ci risentiamo domani mattina alle 7:15 con 24 Mattino. Buona giornata da Irene Zerbini.